Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... Oh, lo sapevo. Ho sempre Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì. Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, in onda ogni 15 giorni su Radio Onda Rossa. La sistemiamo, la sigla. Che non è vero in realtà, perché adesso eccoci qua di nuovo. Eccoci qua. Benvenute. No, queste sono le sorprese di inizio stagione del palinsesto del martedì autogestiva femminista e lesbiche. Siamo in via di assestamento, per cui abbiamo fatto un giro doppio per poter poi fare, diciamo, gli ogni 15 doppio giorni. Carpiato mortale. Mortale. Comunque, benvenute a tutte e a tutti. Siete all'ascolto di The Chart sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Se non avete idea di che cos'è questa trasmissione, ve ne potete fare una andando sul blog che abbiamo appena, diciamo, aperto, che è womenchart.wordpress.com, e lì tra l'altro c'è anche scritto, insomma, come potete partecipare a questo gioco che oggi metteremo in campo per la seconda volta. Potete ascoltare il podcast della settimana scorsa, ascoltarci oggi, farvi un'idea di che tipo di gioco è e poi appunto lanciarvi anche voi. Quindi lanciarvi, ci mandate appunto la vostra chart, come potete vedere anche sul blog, potete seguire un po' quelli che sono stati i nostri percorsi mentali, partendo da, insomma, un input che è un pezzo, un'autrice, un artista, e poi un pezzo dato all'altra, e poi l'altra appunto segue il suo percorso, insomma, in maniera piuttosto libera con le connessioni che le vengono in mente. Vabbè, dove eravamo rimaste la scorsa puntata allora? Vabbè, così vi siete sentiti questa canzone che era l'outro della sigla, l'intro e l'outro della nostra sigla di The Chart, che non abbiamo, di cui non abbiamo parlato. Esatto. Mr. Airplane Man è un duo rockettaro, come potete sentire, appunto, che faceva parte di quel piccolo brano che abbiamo estratto da Dial World, che poi è diventato la nostra sigla. Dicevamo della scorsa puntata. Esatto, la scorsa puntata, perché noi non solo abbiamo deciso di fare questa cosa di connettere appunto artiste con improbabili connessioni, come diciamo nell'incipit della nostra trasmissione, ma di fare un never ending come i never ending tour di Bob Dylan, cioè andare avanti a oltranza, cioè non finire mai, diciamo, non staccare mai le connessioni, quindi continuare. E la volta scorsa la puntata è finita con una cantatrice che era Holly Near, prodotta, una cantatrice folk degli anni, insomma, della musica di protesta folk americana, prodotta da un artista, da una ingegnera che era, insomma, un'ingegnera del suono donna, che era quella che lo collegava alla canzone precedente, ma per questo vi potete ascoltare il podcast. Invece noi siamo partiti da lì per arrivare a per farci un giro un po' anche nella vita privata di Holly, visto che oggi sono io quella che racconta un po' anche i fatti privati. Holly Near nel 1976 fece il suo coming out come lesbica, iniziò una relazione quindi pubblica con un'attivista politica femminista e anche una delle membre fondatrici di una etichetta, insomma, molto importante degli anni 70, che si chiamava The Olivia Records. Questa etichetta, insomma, per tutti gli anni 70 e anche per parte degli anni 80, durò fino al 1988, mise, insomma, sotto contratto, se così si può dire, essendo un'etichetta indipendente, moltissime artiste, soprattutto della scena folk, quindi folk di protesta, come dicevi tu prima, insomma, cantautrici che avevano in questo modo sia la possibilità di registrare le loro cose, sia anche, insomma, di trovarsi all'interno di un'etichetta un po' protetta che si occupava prevalentemente di questa musica. Diciamo che si sono spinte in questi anni, in questi 15 anni di attività, anche verso la world music. Addirittura c'era qualcosa di salsa tra le loro produzioni, ma stranamente pochissima roba rock. In realtà, beh, per raccontarvi in brevissimo quella che poi è stata la storia della Olivia Records, loro nell'88 hanno chiuso i battenti e hanno aperto una linea da crociera lesbica, che è una cosa un po' triste da dire, diciamo, passare dalla musica alle crociere. Però, insomma, però in qualche modo devo dire che sostanzialmente non erano riuscite probabilmente ad acchiappare, ad acciuffare il cambiamento musicale di quegli anni, insomma, è la fine degli anni 80, quindi c'era tutto, insomma, il movimento rock, il movimento indie, l'alternative, il grunge e soprattutto le Riot Girls che venivano fuori in quegli anni, quindi, insomma, dovevano acchiappare questa onda, evidentemente non ci sono riuscite. Ma una cosa divertente, che quindi è il mio collegamento con cui cominciamo questo oggi, è l'unica band femminile, appunto, di questa etichetta rock, una all female band, ovviamente, di cui potete scoprire qualcosa voi stessi all'indirizzo www.teek.com, T-E-E-K.com, dove loro raccontano un po' la loro storia, molto interessante, e anche l'origine di questo nome è molto particolare. Loro si chiamano Bebe Crush e è molto divertente la storia da come è venuta questo nome abbastanza improbabile, che non significa niente ovviamente, e viene dal fatto che loro stavano bevendo il tè, ve lo dico molto velocemente, bevendo il tè insieme su una terrazza, facendo un po' anche le alternative straight edge, come si portava in quegli anni, e a un certo punto nella tazza di una di loro trovano un cockroach, cioè uno scarafaggio, per cui, per sdrammatizzare la cosa terribile, perché ovviamente avere bevuto da una tazza con dentro uno scarafaggio non era una cosa molto bella, una delle componenti della band, insomma, prende in giro dicendo: hai trovato un piccolo scarafaggio, Bebe Crush, facendo la pronuncia alla francese, quindi per renderla ancora più divertente. Potete ascoltare un po' della loro musica, che non si trova facilmente in giro, su internet, appunto sul loro sito, e il pezzo che ho scelto per voi, di cui non mi ricordo, sì, no, me lo ricordo, loro sono Bebe Crush e il pezzo si chiama Alone. I'm alone and dissatisfied, and someone else is alone and dissatisfied too. Sometimes we speak words, and sometimes we don't hear. We've all got these, because we're all alone and dissatisfied, because we're all alone and dissatisfied. Because we're all alone and dissatisfied. Ascoltare, poi la troverete per intero, così insomma ve le goderete, perché erano bravissime queste Bebe Crush, no? Erano veramente brave, non solo suonavano benissimo, ma insomma avevano pure un bellissimo sound anni 70, insomma fa pensare un po' alla roba tipo Hair, quella roba molto un po' psichedelica. Erano psichedeliche, soprattutto avevano un suono, poi stranamente per quegli anni, perché comunque anche lì la canzone folk era molto io, la voce, la mia chitarra, non c'era tutta quella ricerca della pulizia del suono, per cui sì, a parte che poi c'erano tante altre generi musicali che investigavano invece un altro tipo di suono, perché sono sempre gli anni dei Pink Floyd piuttosto che del progressive eccetera eccetera, però sicuramente loro avevano questo suono funky molto pulito, molto interessante. Peccato che, come al solito appunto, poi trovarle, noi le abbiamo scoperte giocando a The Chart. Esatto. Esattamente, che è una delle cose che forse ci restituisce di più questo gioco, è appunto poi scoprire veramente tante connessioni e quindi anche tante cose che appunto poi magari noi non conosciamo. Allora, parlavamo del fatto che prima, insomma, questa Olivia Records, che era appunto l'etichetta che ha prodotto le Bebe Rocks, e ha chiuso nell'88, ma secondo noi, secondo me, ne abbiamo parlato anche fuori microfono la settimana scorsa, insomma aveva chiuso i battenti perché nell'85 fece un clamorosissimo come si può dire? Errore di valutazione, esatto. Chiamasi errore di valutazione, nel senso che ricevette il demo dell'allora sconosciuta Melissa Etheridge, che invece immagino tutte le nostre ascoltatrici conoscano benissimo perché è un'icona della musica lesbica, perché lei era dichiarata, è sempre stata dichiarata e comunque sì, ha avuto una carriera lunghissima, importantissima. Ha scritto e pubblicato una decina di album, dischi, sì, abbastanza conosciuti, e quindi loro rifiutarono questo demo, e quindi secondo me da lì fu l'inizio della fine dell'Olivia Records, perché avessero invece deciso di produrre Melissa, sì, forse probabilmente non avrebbero chiuso, magari avrebbero chiuso un po' più in là. E invece non l'hanno fatto, ma appunto poi questa è la storia, succede. Melissa comunque non gliel'ha perdonata troppo, perché questa notizia la sappiamo, perché lei in un documentario appunto sulla sua carriera artistica eccetera ha mostrato la lettera in cui le è veniva stata rifiutata, esatto, quindi insomma se l'è incorniciata, secondo me è lì che fa tiè ogni volta, o comunque l'avrà fatto per i primi anni sicuramente, dici. Vabbè. Io invece, la mia proposta da Melissa Etheridge è Joss Stone. Perché Joss Stone? Allora, perché in un concerto del 1995, in occasione dei Grammy, si incontrarono sul palco proprio Melissa Etheridge e Joss Stone, tra l'altro per fare, anche qui c'entra un'altra donna, ok? Janis. Esatto, nonché icona per tutte noi e mostro sacro, sempre piacevole ricordare, che è appunto Janis Joplin, in un tributo a Janis Joplin, in cui loro due cantano, prima Joss Stone canta Cry Baby e poi insieme cantano Piece of My Heart, facendo una versione molto bella, la trovate in giro e ve la linkiamo sulla pagina del nostro blog, così non dovete nemmeno cercarla. E Joss Stone, che in realtà ha avuto un exploit col suo primo disco, per cui era diventata questo fenomeno super nuovo della musica soul, eccoci qua, è arrivata la nuova promessa. Poi in realtà ce la siamo un po' persa tutta, perché anche questo è un po' il meccanismo di fagocitare anche gli artisti, che poi in realtà sono molto bravi, perché lei ha una grandissima bella voce, nonché una bella espressione comunque musicale. E noi invece ce l'ascoltiamo, quindi in un suo pezzo, che è Stoned Out of My Mind, che è del tipo secondo o terzo disco, insomma era Introducing Joss Stone, tipo o il volume 1 o il volume 2, adesso non lo ricordo, ma intanto ecco Joss Stone. Thank you. E insomma, questo era Joe Stone, con Stoned Out of My Mind. Siete sempre all'ascolto di The Chart. Questo è un bellissimo pezzo, tra l'altro, che non ricordavo più, quindi mi ha fatto piacere riascoltarlo. Proprio dalla performance che tu, insomma, citavi insieme a Melissa, Piece of My Heart, Cry Baby, insomma, è partito il mio gancio, che poi finisce, visto che pensiamo di annunciarlo prima, così vi incuriosiamo di più, a Miriam Makeba. Perché quei due pezzi, Piece of My Heart e Cry Baby, poi portati al successo da Janis, ma insomma precedentemente già usciti nel 67, precisamente con la voce di Irma Franklin, che trovate in giro se volete sentire la versione originale, erano stati scritti da due tipi, di cui uno, che si chiamava Jerry Ragovoy, ha scritto tantissime canzoni, insomma mi sono andata a spolciare un po' la sua produzione, per tantissime artiste che poi sono tra, insomma, quelle che amiamo di più, Dusty Springfield, veramente tantissime, Lorraine Ellison, Time Is On My Side, che è una canzone famosissima, poi resa famosa dai Rolling Stones, ma in realtà incisa da Lorraine Ellison, e varie altre. Uno dei pezzi che ha scritto, che è diventato famosissimo, l'ha scritto appunto per Miriam, ed è Pata Pata, l'ha scritto nel 67, insomma, ed è una delle canzoni più famose di Miriam Makeba. Di Miriam, che dobbiamo dire, è nata a Johannesburg, insomma, ha cominciato a, la sua musica era, insomma, soprattutto all'inizio, una mistura tra il jazz, che era durante gli anni 60 una musica molto suonata in tutta l'Africa, con una grande commissione con quella che era la musica tradizionale africana dei vari paesi. Quindi, insomma, se fate un po' di ricerca su queste cose troverete tantissime meravigliose produzioni africane di quegli anni, tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70, veramente straordinarie, in cui appunto c'era questa commissione, questo mix molto molto interessante. Insomma, è stata esiliata per 30 anni perché si era battuta, aveva fatto un documentario, insomma, aveva cantato canzoni, scritto canzoni contro l'apartheid, quindi insomma una donna veramente con una storia straordinaria. Morta a Castel Volturno, come sappiamo, insomma, vicino da dove vengo io, dopo un concerto, anche in quel caso per una questione politica, insomma, contro la situazione, quello che era successo a Castel Volturno, appunto, con i migranti e con, insomma, la tragedia che era avvenuta poco prima. Quindi da quell'album, appunto firmato da Mama Africa, come appunto veniva chiamata, Pata Pata, io vi faccio ascoltare Miriam Makeba in Apo Zamani. Apo Zamani mama siku ya hivi, yeah, mama. Apo Zamani mama siku ya hivi, yeah, shauri ya pombe, yeah, yeah, mama. Sasa hapo zamani mama, shauri ya pombe, yeah, yeah, mama. Oh, yeah, yeah, siku ya hivi, yeah, mama. Oh, yeah, yeah, siku ya hivi, yeah, yeah. I'm dobbiamo riprendere la concentrazione, che abbiamo troppe distrazioni oggi. E insomma, no, siamo qua a The Chart in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è il martedì autogestito femministe e lesbiche, in onda fino dalle 17 fino alle 23. Questo è un programma di trasmissione, una trasmissione musicale di connessione, cicli, ricicli, improbabili coincidenze. E questo gioco lo potete fare anche voi, lo facciamo a ping pong dal vivo io e Donna qui, ma sul blog womenchart.wordpress.com, dove potete ascoltare i podcast, così come sul blog dell'MFLA, che è mfla.noblogs.org, e lo potete fare pure voi, perché abbiamo messo un quello che si chiama in inglese un form, cioè una pagina dove potete mettere il vostro nick, quello che vi pare, e le vostre sei canzoni con le vostre sei connessioni. Giocate a casa, giocate con un'amica vostra se non volete farlo da sole, e mandatecele, perché ci piacerebbe fare appunto una trasmissione al mese con le vostre connessioni, appunto, e non solo le nostre. Tornando a appunto alla puntata di oggi, stavamo ascoltando Miriam Makeba, appunto, come dicevamo prima, Mama Africa. In realtà le parole si sprecano, un'artista da una lunghissima carriera, sempre presente, appunto, sempre pronta a dare voce a chi voce ne aveva, ne ha avuta poca nella storia. E sicuramente poi tutte le artiste che sono comunque venute e sono nate e cresciute in Africa, hanno portato la loro musica in giro per il mondo, sono state sempre debitrici a lei. Intanto vi dico che la mia connessione è Carmen Consoli, e vi dico che l'altra artista che connette Miriam Makeba a Carmen Consoli è Angélique Kidjo, che appunto anche lei è africana, e mi faceva piacere farvi sentire dalla sua viva voce il perché. Miriam Makeba, 2 years ago I started in France. We took it to London and we're gonna do it again in May, because for me she's my role model, really. She was the real wake up call for me that make me make the decision of, if I don't do one day, if I don't become the human rights lawyer that I wanted to be, if I become a singer. You wanted to become a lawyer? Absolutely. I went to the law university, and I decided that if I quit university school, or law school, what I will do will be singing, and I will try to follow her heritage, what she has given me, the strength, the empowerment she has given to me. Indeed. Now, on your new CD, DVD, Spirit Rising, there is a kind of tribute there to Miriam Makeba. One song that really triggered all my career toward Miriam Makeba was Malaika. I listened to that song, was 9 years old. That classic Tanzanian song that some Kenyan says is there. Absolutely, it is Tanzanian. Insomma, lei qui diceva, l'avrete sentito, Absolutely, si riferiva al fatto che Miriam appunto è una sua, ovviamente, ispiratrice. Sì. Non c'è niente da aggiungere, niente da togliere a questo, che se non fosse comunque gran parte del fatto che anche lei fosse lì, è merito comunque di Miriam Makeba, della sua arte e della sua musica. Quindi, insomma, una connessione diretta, devo dire. Diretta. E Angélique Kidjo si è trovata poi un anno in un palco insieme a Carmen Consoli, che è stata l'unica artista italiana chiamata da Rita Marley, altri al concerto tributo dell'anniversario di Bob Marley, e insieme hanno duettato. Evidentemente artisticamente hanno trovato delle affinità, delle connessioni esattamente come facciamo noi, e quindi hanno, lei poi, Carmen, in quel periodo, due anni dopo stava incidendo il suo nuovo disco, che a quell'epoca era Eva contro Eva, e l'ha chiamata, insomma, hanno cantato, hanno fatto un pezzo insieme che si chiama appunto Madre Africa, che era il penultimo, l'ultimo di Eva contro Eva, e quindi questa è la mia connessione per arrivare a Carmen. Di Carmen però ci ascoltiamo una ormai vecchia, direi, perché ormai sono passati più di quasi 15 anni, una canzone che sta nel suo disco, che è rimasto il suo disco più rock, più elettrico, che era Mediamente Isterica, ristampato in versione deluxe nel 2008, e ristampato con, appunto, riarrangiato e ricantato, perché nel mentre Carmen in qualche modo, lo dico anche fortunatamente, è un artista che non si è mai fermata, quindi ha anche lavorato sulla sua voce, che molte ascoltatrici forse non sopportano, perché poi Carmen ha sempre generato questo amore e odio. Amore e odio, sì. Diciamo, c'è chi l'ha amata follemente per quello che ha scritto e anche per come l'ha cantato, c'è chi ha sempre detto che la sua voce con tutti quei sospiri è insostenibile. Lei negli anni in realtà ci ha lavorato tanto e adesso è molto più profonda e ha ricantato questo disco rock e l'ha ripulito dei suoni come lo voleva lei, e quindi ci ascoltiamo quella che allora comunque fu un successone, che era Besame Giuda. Quest'ultima prova in fondo, posso vantarmi di essere una donna con la T maiuscola. Certamente ho fatto tesoro dei tuoi insegnamenti, posso ben dire di essere una donna con la T maiuscola. Adesso posso affermare di essere una donna con la T maiuscola, di essere una donna mediamente isterica. Niente male, bella, no. Questa, tra l'altro anche, è anche la prima artista italiana che facciamo ascoltare, insomma, sì. Sono sempre molto parca su, invece, no, stavamo parlando prima durante il pezzo, invece mi ricordo che avevo una cassetta di Due Parole che stavo guardando, è del 1996, che mi piacque tantissimo, e così insomma andai a guardarla, andai a vedere un concerto in provincia di Napoli dal vivo lì in quegli anni, 97-98, e mi sorprese tantissimo per la carica esplosiva, la capacità di tenere il palco per tanto tanto tempo, per 2 ore, la chitarra elettrica, nessuna paura, nessun timore del pubblico, e addirittura essendo anche giovanissima, avendo fatto solo 2 album all'epoca, la capacità di tenere mezz'ora il palco da sola in versione acustica, come fanno tutte le artiste, no, che hanno comunque, quindi veramente mi impressiona tantissimo. Perché lei si era fatta le ossa comunque, nel senso che suonava nei pub, per, come diceva lei, sempre per 70.000 lire un panino e una birra a Catania, e quindi per aveva imparato anche che cos'era il pubblico e come andava, e come reggerlo. E come reggerlo. Io questa volta devo dire sono andata un po' sul privato anche nel caso di Carmen Consoli, nel senso che in qualche modo Carmen dall'inizio della sua carriera è sempre stata, diciamo, ci sono sempre stati, come si dice, questi rumors su di lei, no? Sulla sua sessualità. È diventata molto velocemente un'icona lesbica, gay, diciamo, del mondo gay in generale, comprensivo di LGBTQI, lo è ancora, almeno per quanto ne sappia io, e in qualche modo si è sempre parlato di lei da questo punto di vista. Lei ha sempre un po' negato, glissato o giocato su questa cosa, però insomma poi giustamente sono fatti suoi, non l'ha mai confermato né disatteso né smentito totalmente questa cosa. Però questa cosa mi faceva venire in mente una scena di un film, la scena iniziale in realtà, di un film che per noi anche da questo punto di vista è stato molto importante, Go Fish del 1994 di Rostrochet, che si ricollega anche a The L Word eccetera eccetera, quindi come vedi le connessioni sono ampie, ampissime. Ecco, la scena iniziale di questo film, per chi non l'avesse visto, si trova sulla rete anche sottotitolato, per chi l'ha visto se lo ricorderà sicuramente, era la scena in cui Kia, che fa l'insegnante, fa la professoressa all'università, tiene un corso di Women's Studies, di studi sulle donne, chiede ai suoi studenti di fare una lista di donne lesbiche o presunte lesbiche di cui insomma si parlava in quanto lesbiche, e comincia questa lista in cui abbiamo, che ne so, Eva piuttosto che Saffo, insomma la super gettonata Saffo, piuttosto che Whitney Houston esce anche nella lista, Angela Davis, Mary Lou Retton, che era una ginnasta statunitense, insomma, che aveva vinto negli anni 80 delle gare contro i russi nella guerra fredda, Olivia Newton-John, Janis Joplin, insomma, a un certo punto una studente interrompe la lista e dice: sì, vabbè, ma perché dobbiamo fare questa lista? Cioè, voglio dire, non sappiamo neanche se è vero quello che si dice di loro, non sappiamo neanche se sono veramente lesbiche, se hanno vissuto una vita con altre donne. E Kia, l'insegnante, la professoressa, dice proprio questo: il punto è questo, cioè noi non abbiamo una storia che racconti le nostre relazioni, le nostre connessioni, e per poterla cambiare la storia, per poter riscrivere la storia, prima dobbiamo averne una, prima dobbiamo scrivere quella che è stata e quella che è in questo momento. Quindi in qualche modo l'importanza di raccontarci, che è anche un po' quello che facciamo qui al martedì femminista e lesbico autogestito. Ma per non diventare troppo pesante, come sono state, a ritornare invece al gossip, una delle attrici di Go Fish, cioè Gloria Tanner, che poi è anche una sceneggiatrice, attrice eccetera eccetera, che interpretava il personaggio principale, cioè Max, ha una storia con un'altra icona femminista e lesbica, cioè Tracy Chapman. L'ultimo album di Tracy Chapman è del 2008, quindi un po' di anni fa, e noi da quell'album ci ascoltiamo Our Bright Future. To my father, what of your sons, all of your children, even the ones sinner had to martyr to face the gun. Precious bodies opposed to bombs. Let on, let on. To take the path where our bright future is in our. You will be what you want. The record shows what we are not. È un bellissimo album questo, se non ve lo siete malinconico sarei lì comprate, scaricate. No, beh, sai che Tracy Chapman questo è molto, diciamo che molto... l'allegria non è probabilmente la sua. No, in effetti sì, è vero, alterna delle ballate molto sentimentali, molto belle, delle storie che poi ci sono vicine, no? Che ci succedono a pezzi come questo, Our Bright Future, che dice insomma il nostro futuro luminoso è nel passato, non è più davanti a noi ma è quello dietro, quindi insomma ha testi politici insomma molto belli come al solito. Io l'ho riscoperto in questi giorni grazie a The Chart, quindi insomma grazie a te. Grazie. E in realtà, perché poi vi svegliamo questa cosa, noi le motivazioni e le connessioni non ce le raccontiamo, un po' perché ci diverte questa cosa di farlo appunto live ai microfoni, quindi anche di rendere la trasmissione anche più divertente per noi stesse e meno costruita. E io vi dirò che il pezzo tra Tracy Chapman e dove sono arrivata io, che sono Le Tigre, la connessione in realtà è la stessa persona. Cioè la relazione, qua proprio The Chart come la nostra sigla, che Tracy Chapman aveva con Guinevere Turner. Il punto è che lei è un personaggio veramente comunque importante della scena culturale lesbica americana, nel underground. Senso underground, ovviamente, figurarsi, perché al di là di aver fatto diversi ruoli come attrice, e tra l'altro poi è apparsa anche in DL World come ex compagna di Alice, tanto per continuare a girare in cicli e ricicli, e ha scritto anche le sceneggiature di molti di questi film. E uno degli altri film cult, insieme, prima parlavamo di Go Fish, ma c'è un altro film che nella comunità lesbica è veramente un cult, che è Itty Bitty Titty Committee. La colonna, dove tra l'altro recita anche uno dei membri di questa, una delle membri di questa band, che è Le Tigre. E la colonna sonora di quel film era quasi interamente, a parte uno o due pezzi, appunto composta interamente da pezzi delle Tigre, dove c'era lei, che adesso ha un'altra band che si chiama Man, eccetera, che adesso non mi ricordo lei come si chiama. Di preciso, e quindi la mia scelta appunto è stata Le Tigre, di una canzone che sta in This Island, quindi uno degli ultimi loro lavori in realtà, perché poi appunto poi si sono sciolte. A parte che queste hanno tutte 3400 progetti e connessioni e interconnessioni diverse con altre artiste, fanno tantissime cose, per cui sì, diventa seguirle appunto in questo gioco di traccia le connessioni diventa divertentissimo. Comunque Le Tigre con Nanni Nanni Bubu. Le Tigre, e beh, qua si aprirebbe una serie di chart, diciamo, potremmo fare puntate e puntate sulle tigre e tutte le connessioni legate tipo a loro, tipo Shane nel grafico di Alice. Sì, sì. Catherine Hanna soprattutto, insomma, è una delle tre componenti delle tigre, è praticamente la storia delle Riot Girls, insomma, ha cominciato dall'inizio, era dentro il movimento dall'inizio, e quindi in qualche modo con le Bikini Kill, il suo primo progetto musicale, praticamente, insomma, poi le ha incontrate tutte. È una cosa fighissima, insomma, io sto finendo di leggere in questi giorni un libro bellissimo, si chiama Girls to the Front, ve lo dico in inglese perché non è stato tradotto in italiano, di Sarah Mercus, e probabilmente non c'è tutta questa richiesta, anzi spingete perché lo traducano in italiano, perché è un bellissimo libro in cui Sarah Mercus racconta da protagonista, perché ci stava dentro, la storia del Riot Movement, quindi tutto quello che succedeva sia da un punto di vista politico che da un punto di vista musicale, scusate, visto che le due cose erano estremamente connesse. Lo spazio che si chiedeva era uno spazio politico, rispetto a quelle che erano le femministe del movimento precedente, la generazione precedente, e quello spazio politico era legato alla musica, e quindi era un periodo molto bello in cui le amicizie erano importanti e delle amicizie sostanzialmente venivano fuori le band. Nella prima parte del libro, insomma, quando cominciano a riunirsi queste ragazze nelle varie assemblee, riunioni, eccetera eccetera, racconta, insomma, Sara racconta insieme ad altre che andavano ai concerti di quelle che erano le band un po' più note sempre di quel giro, e tra queste band, per esempio, c'è Corinne Tucker, che poi è stata Heavens to Betsy in quegli anni, e successivamente voce e chitarra delle Sleater-Kinney, un'altra band storica, racconta che era andata insieme a Alison Wolfe, voce delle Brad Mobile, al concerto dei Pixies. Quindi avrei voluto fare ascoltare i Pixies come connessione, ma non posso, in quanto i Pixies sono tornati in studio per registrare un nuovo EP, ma Kim Deal, la nostra straordinaria bassista e voce dei Pixies, non ce l'ha fatta più a sopportare quel despota di Black Francis, con il quale ha litigato penso per 30 anni, che non le lasciava scrivere i pezzi che avrebbe voluto scrivere, e quindi ha detto adesso basta, c'è una certa, anche no. Dei progetti collaterali di Kim Deal ce ne sono tanti, uno, il più importante probabilmente, è The Breeders, che è una, anche quella, insieme alla sorella gemella Kelly e a Tanya Donnelly, un'altra straordinaria protagonista della musica di quegli anni, ma anche di questi anni, insomma, visto che poi in quegli anni la sua band, insomma, era lei ha partecipato a un sacco di band, non potrei neanche farvi la lista, veramente ha suonato in tantissime band, ma diciamo il suo nome è prevalentemente legato a una band, probabilmente una delle band più sottovalutata della storia, si può dire, no? Sì, sì, soprattutto con la voce sua che è spettacolare, quella di Christine Hersh, che insomma anche a Sisterhood vi abbiamo fatto sentire le nuove cose, che è veramente una voce meravigliosa, che si contrapponeva in qualche modo a quella di Tanya Donnelly, che appunto suonava anche lei la chitarra e cantava nelle Throwing Muses, e loro si alternavano a condurre i brani che avevano scritto reciprocamente, diciamo un po' contrapponendo anche le loro voci e contrapponendo il loro modo di interpretare i pezzi, quindi insomma da un album molto molto vecchio delle Throwing Muses, io vi faccio ascoltare Juno. Questo erano le Throwing Muses. Siamo quasi alla fine, stiamo anche un po' sforando, sono le 18:20, ma abbiamo avuto una serie di incursioni al movimento, per cui abbiamo iniziato un po' tardi, abbiamo fatto un po' di cose. E queste erano le Throwing Muses, che in realtà qui questo pezzo non rende giustizia. Io vi assicuro che la voce di Christine Hersh è veramente una cosa proprio spettacolare, e non ometterei di citare che comunque erano prodotte da una casa discografica indipendente tra le più famose, la 4AD, molto molto importante. E in realtà chiudiamo The Chart con questa connessione, che poi sarà quella che ci porteremo questa volta per davvero fra 15 giorni. E se volete scriverci, ci trovate a thechart@ non mi ricordo più, girls.net, girls.net, grrlz.net. E sul trovate i podcast sul blog dell'MFLA, così come sul blog della trasmissione. Invece trovate tutto il racconto che vi abbiamo fatto, anche se forse ascoltare il blog vi diverte di più, però trovate, in realtà il racconto serve perché vi linkiamo tutte le connessioni, tutte le artiste, i vari spunti, i video, alcune volte magari, i film, magari eccetera. Ci sono percorsi che noi non abbiamo seguito, esatto, ma che invece sono e più che voi potete seguire. Se fate la vostra chart, mandate ce l'ha sopra il sito, cioè ci sono tutte le istruzioni come fare. Io in realtà la connessione, questo triangolo Christine Hersh, Tania Donnelly e Kim Deal resta, nel senso che Kim Deal, appunto, anche lei, a parte essere la chitarrista dei Pixies, e il suo suono si riconosceva anche qui nelle Throwing Muses, perché poi comunque c'è una personalità nella sua chitarra, ha fatto tra i vari progetti, a un certo punto aveva un gruppo che ha fatto un disco solo, e questo disco il gruppo si chiamava The Amps, il disco, e da questo disco vi mando l'ultima canzone, che è Dedicated, che era appunto in chiusura quasi dell'album, la penultima o l'ultima. Noi ci vediamo la prossima settimana, il martedì continua adesso Atti e Misfatti. A buon proseguimento, ciao a tutte, ciao. Quella responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel? Ah, lo sapevo. Ho sempre Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento